Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, l'anno scolastico sta per concludersi o si è già concluso in alcune regioni d'Italia. È stato un anno delicato, difficile, dominato dal dibattito sulla riforma della scuola, un dibattito che ancora non si è esaurito perché la riforma non è stata definitivamente approvata. Allora parliamo di scuola con un grande intellettuale, uno storico della letteratura nonché scrittore, Giulio Ferroni, che ha pubblicato il libro La scuola impossibile. È pubblicata da Salerno, 124 pagine, 9,90 euro. Ferroni, per così dire, torna sul luogo del delitto, perché aveva già scritto un libro sulla scuola nel 1997 e adesso, anche alla luce delle linee della riforma Renzi, riprende questo tema, forse con una venatura più amara di quanto non avesse allora. Al centro della questione Ferroni mette la passione degli insegnanti, alla quale è legato, scrive, il destino della scuola. Destino che sta non nella capacità di essere sempre tecnologicamente avanzata, in una rincorsa perenne che ovviamente non può che vederla perdente nei confronti della tecnologia, ma di formare, questo secondo Ferroni dovrebbe essere il destino appunto della scuola, di formare cittadini responsabili, capaci anche quando occorre di prendersi cura per esempio degli edifici nei quali si studia, dell'ambiente circostante. Ferroni richiama tutte le proprie responsabilità, a partire dalle famiglie che non abbandonano mai la corazza protettiva eretta intorno ai propri figli e che si manifesta nel prendere sempre e comunque le difese dei ragazzi, piuttosto che nell'abitudine tutta italiana all'accompagnamento, quasi che ragazzini e ragazze non siano capaci di fare da soli qualche centinaio di metri, e poi tanti altri aspetti dei quali parliamo adesso con l'autore. Buonasera Giulio Ferroni. Buonasera. Giulio Ferroni, questo è il suo secondo libro sulla scuola. Nel 1997 ne aveva scritto un altro intitolato La scuola sospesa, adesso La scuola impossibile. Che cosa è cambiato? Che cosa è successo in questi 18 anni? Beh, sono successe tante cose, tra l'altro la delusione è aumentata anche in seguito a tutte le varie riforme, tentativi, burocratizzazione ulteriore, ma abbiamo avuto poi un cambiamento, uno di quei cambiamenti che si definiscono antropologici, che era già in atto prima ma che adesso è diventato proprio assoluto con l'avvento, no, di forme di comunicazione che già nel 97 c'erano, che però non avevano assunto il dominio assoluto che hanno adesso, insomma, no, il dominio dell'informatica, della rete, e anche il cambiamento generale che c'è stato nell'orizzonte dei paesi avanzati in seguito alla crisi negli ultimi anni, insomma, il cambiamento dell'economia, le richieste diverse che vengono fatte alla scuola, e quindi ecco, si sente trastornati in maniera particolare di fronte a questa situazione. A un certo punto lei cita questa canzone di Renato Rascel. Il mondo cambia così. Quasi a simboleggiare l'ansia continua al cambiamento che domina la nostra scuola. Ma questo secondo lei è anche uno degli errori principali nei quali cadiamo, quello di voler attualizzare a tutti i costi la scuola? Tra l'altro, ecco, il cambiamento che c'è stato è radicale, non va sottoscritto fino in fondo in tutti i suoi aspetti, perché comporta dei caratteri negativi e pericolosi anche in rapporto a quelli che saranno, ahimè, i cambiamenti futuri, che non sono quelli di uno sviluppo progressivo sempre in avanti, no? Di un'affermazione totalizzante della rete, di una virtualizzazione dell'esistenza. Purtroppo lo vediamo dai conflitti in atto e dalla stessa crisi economica, le cose saranno molto più complicate in futuro. Quindi al cambiamento bisogna reagire, naturalmente non si tratta di reagire nella scuola, ma di formare, no, delle persone che siano in grado di reagire ai più vari cambiamenti, alle difficoltà che ci sono e ci saranno in futuro, no? Che le vediamo poi, figuriamoci il dramma dell'immigrazione che non si potrà in nessun modo arrestare. Ecco, c'è bisogno non di una scuola leggera, ma di una scuola che sappia formare delle personalità capaci di anche di inventare il nuovo, ma il nuovo non è semplicemente l'innovazione tecnologica, che ha bisogno di formare delle personalità, non in grado soltanto di rispondere, no, all'esigenza dello sviluppo economico, ma di reagire alle contraddizioni di questo sviluppo. Io credo che per questo sia necessario prima di tutto mantenere una formazione globale, una formazione di coscienza critica, per cui è importante non tanto una scuola fai da te, ciascuno prende quello che gli serve, ma credo che sia importante per il futuro mantenere la capacità di guardare alla complessità. Tra l'altro si parla tanto di complessità, ma nello stesso tempo si suggerisce invece una scuola dove, insomma, cioè, ciascuno prenda quello che gli serve. Per rimanere sull'attualità, visto che lei ne parla, che giudizio dà della riforma Renzi, almeno di quello che fino adesso è stato approvato? Io proprio ne apprezzo alcune così, intenzioni, ecco, però credo che il suo effetto fondamentale sia questo di non rispondere ad una visione culturale, insomma, ad un'adeguata analisi del mondo che abbiamo davanti e delle possibilità della cultura. No? Si basa su dei presupposti che sono quelli del pensiero corrente, ma non c'è un approfondimento culturale forte, insomma, e questo credo, no, è stato in un, anche quando è stata creata una scuola da cui ormai siamo lontani, come quella di Siciliano, no, con tutti i suoi limiti, allora c'era un pensiero forte. Oggi manca, adesso forse manca dappertutto, no? c'è tantissima riflessione di ogni genere, ma un pensiero capace di creare proprio delle strutture solide che rispondano veramente alle esigenze del presente, io non lo vedo in atto. Insomma, si risponde sempre, come capita adesso a livello dell'economia globale, si risponde all'immediatezza. Lei infatti, come grandi difetti della scuola di oggi, sottolinea il totalitarismo informatico e il normativismo pedagogistico, che fra l'altro spiega essere frutto di concezioni culturali e sociali assolutamente remote, ormai superate. Sì, perché soprattutto certi modelli della pedagogia ancora in atto rispondono ad un'idea proprio di progressista generica, no? Di visione dello sviluppo globale, delle potenzialità della società e dello studente, no? Invece il mondo è contraddittorio, insomma, no? Richiede contrasti, insomma, no? E la formazione di una coscienza critica non può che andare al di là, no? Di un illusorio democraticismo, no? che io mi sento fortemente democratico, ma credo che per salvare la democrazia bisogna andare al di là di un democraticismo irenico, no? Dove, insomma, tutto si sviluppa verso la creazione di ambienti piacevoli, agevoli, aperti a tutti. No, l'apertura si dà attraverso così la coscienza del lavoro, della durezza, della resistenza critica, non attraverso l'offerta, diciamo, no, apertura indiscriminata. E infatti lei, quando parla dell'informatica, fa un nesso tra informatica, leggerezza, che è diventato il nuovo mito, e quello che chiama evaporazione della democrazia. Infatti, tra l'altro, il mondo non è leggero per niente, insomma, no? Il rapporto totalizzante con l'informatica ci dà l'illusione, no, che tutto scorra velocemente, che tutto sia in tempo reale, no? Che ora questa l'informatica va usata e anche approfondita in ogni senso, ma non può diventare un modello del comportamento, no? Non ci dobbiamo illudere, insomma, che tutto sia leggero, il mondo è sempre più pesante, in realtà non è leggero per niente, insomma. L'economia non è soltanto l'economia finanziaria, ma dietro l'economia finanziaria c'è la concretezza del lavoro che continua a persistere. Ecco, vabbè, questa è una questione forse un po' troppo generale, però mi pare che vada tenuta presente. Grazie a Giulio Ferroni, autore della Scuola Impossibile. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie professore, buonasera. E a proposito della leggerezza di cui ci ha parlato Ferroni, segnalo un libro che certamente se fossi un insegnante farei leggere ai miei alunni. È un libretto di un grande poeta vissuto tra l'8 e il 900, Rainer Maria Rilke, uno dei maggiori del secolo scorso, e si intitola Lettere a un giovane, pubblicato da Kikaion, che è la casa editrice della comunità di Bose, 128 pagine, 10 euro, tradotto da Lorenzo Gobbi. Si tratta di 10 lettere più alcuni scritti dirette a un giovane poeta, Franz Xaver Kappus, morto nel 1966, che appena 19enne aveva scritto dei sonetti e li aveva inviati per un giudizio proprio a Rilke. Da lì nacque appunto questa corrispondenza, di cui qui troviamo soltanto le lettere di Rilke, non troviamo le lettere del giovane poeta. E in queste lettere Rilke dà al suo interlocutore molti insegnamenti di vita, parla appunto del modo in cui apprendere la vita, parla del modo in cui considerare la sessualità, parla della solitudine. Insomma, come spiega Enzo Bianchi, che è il priore di Bose, nella prefazione, qui Rilke si fa testatore, indica ai giovani impreparati alla vita e principianti in tutto che essi hanno un'eredità, il bene dell'umano che è il loro e che li ospita, di cui hanno il compito di prendersi cura, ma anche la vita, il quotidiano che li accoglie, li mette alla prova, con cui si trovano a scontrarsi conoscendo tristezze, angosce, entusiasmi, rapimenti estatici e soprattutto fatiche e difficoltà che insinuano a loro la tentazione di cedere al demone della facilità e della leggerezza. Fin qui Bianchi. Ecco, appunto, la leggerezza. Torna questo termine criticato da Ferroni, perché anche Rilke, quando ancora l'informatica non era alle viste, raccomanda, in un altro scritto contenuto in questo libro, di considerare che di ciò che è leggero non abbiamo alcun ricordo. Credi che sia più lieve per un seme rimanere nella terra, o che non sia pesante per gli uccelli migratori o per gli animali selvatici che devono provvedere a se stessi? E con questo interrompiamo un momento e ci sentiamo fra pochi minuti. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Il prossimo 18 giugno ricorderemo il bicentenario di un evento veramente fondamentale nella storia d'Europa. Addio, miei soldati! Addio, ragazzi! Addio, figlioli miei! Questo è Napoleone, interpretato da Rob Steiger nel film di Sergei Bondarchuk intitolato Waterloo, che è appunto la battaglia che si svolse il 18 giugno del 1815 e che segnò il destino di Napoleone e diede inizio a una nuova Europa. E a questo appuntamento sono dedicati alcuni titoli pubblicati da Castelvecchio. Il primo si intitola La battaglia di Waterloo e di Henri Lachuc, che è uno storico militare francese, 96 pagine, 12,50 euro, tradotto da Giulio Mertone. Qui troviamo una ricostruzione quasi ora per ora della battaglia che ci permette di sentirci proprio sul campo, dove possiamo esaminare gli schieramenti in campo e verificare le tattiche e gli errori che segnarono l'esito di quello scontro che segnò a sua volta la fine di Napoleone, il quale, conclude l'autore, amaramente si dovette accorgere che il destino e lui non andavano più d'accordo. E infatti ricorda l'autore che in seguito Napoleone avrebbe detto ai suoi compagni di prigionia: «Sentivo la fortuna abbandonarmi, dentro di me non avevo il presentimento del successo finale. Non osare vuol dire non fare niente al momento opportuno, e non si osa se non si è convinti della buona fortuna». L'indiscusso vincitore di Waterloo fu il duca di Wellington, di cui sempre Castelvecchi pubblica la biografia, di Richard Eldington, che è un poeta e scrittore britannico, 382 pagine, 22 euro, tradotto da Ceres de Bosis. Wellington è un personaggio ovviamente leggendario in Gran Bretagna, tanto che fino ai primi del Novecento, per antonomasia, il duca era solo lui, lui, il duca di Wellington, che era morto nel 1852. Tra l'altro Wellington sarebbe stato anche primo ministro per un paio d'anni verso il 1827 e poi per un mese nel 1834, e fu un'esperienza non facile, segnata però da scelte riformatrici importanti. Per esempio, fu Wellington che concesse ai cattolici di sedere alla Camera dei Comuni e fu Wellington che approvò una nuova legge sul grano che danneggiava gli interessi dei grandi proprietari terrieri. E a proposito di Waterloo, Aldington smonta alcune ricostruzioni letterarie di parte francese, cita per esempio Hugo e Chateaubriand, e nota come viceversa in Gran Bretagna tutti poi si fossero intestati la vittoria, senza alcuna menzione di Wellington, tanto che era nato un detto popolare come Bill Adams vinse la battaglia di Waterloo. Ma fu lo stesso Wellington a esclamare dopo la battaglia: per Dio, non credo che l'avremmo spuntata se io non mi fossi trovato là. La battaglia di Waterloo infranse dunque il sogno di Napoleone, che dopo la sconfitta nella campagna di Russia aveva già dovuto abbandonare il potere e per ritirarsi all'Elba. L'esilio durò poco, come ricorderete, perché il 1 marzo del 1815 Napoleone era fuggito dall'isola per rimettere piede in Francia, dove era sbarcato ad Antibes, e dare inizio ai 100 giorni che si sarebbero appunto conclusi con la disfatta nel campo belga. Quei 100 giorni rievoca Sergio Valzania in 100 giorni da imperatore, l'ultima vittoria di Napoleone, pubblicato da Mondadori, 246 pagine, 20 euro. E anche qui Valzania ricorda come Napoleone non avesse accettato la sconfitta elettorale come un semplice e sfortunato fatto militare. E infatti scrive l'autore: quello che Napoleone rivendica come parte integrante del cammino percorso alla conquista della gloria perfetta è un evento militare misterioso, per molti versi inspiegabile. Una sconfitta che proviene più da una volontà divina che da capacità umane. E sentiamo come Valzania, citando lo stesso Napoleone, esprime questa convinzione dell'imperatore. Nel bollettino dell'armée datato Laon, 20 giugno 1815, redatto dall'imperatore meno di due giorni dopo la battaglia, leggiamo i tratti epici di una sconfitta giunta quasi per mano divina. Prima, a quel momento la battaglia era vinta. Noi occupavamo tutte le posizioni che il nemico teneva all'inizio dell'azione. La nostra cavalleria era stata però impiegata troppo presto e malamente, e non potevamo più aspettarci un successo definitivo. Ma il maresciallo Grouchy, avendo saputo dei movimenti dei corpi prussiani, marciava alle loro spalle, situazione che si assicurava un successo decisivo per il giorno seguente. Dopo 8 ore di fuoco e di cariche di fanteria e di cavalleria, tutta l'armata vedeva con soddisfazione la battaglia vinta e il campo di battaglia in nostro potere. Questa situazione si trasforma però improvvisamente in un caos. Qualcuno crede che la vecchia guardia si stia ritirando. Si levano grida di «Tutto è perduto! La guardia è respinta!» Subito seguono i «Si salvi chi può! È l'apocalisse!» Napoleone scrive «Un terrore e panico si impadronì di colpo di tutto il campo di battaglia. Nel più grande disordine ci si precipitava sulla linea di comunicazione. I soldati, gli artiglieri, i traini dei cannoni si accalcavano per raggiungerla. La vecchia guardia schierata in riserva venne anch'essa travolta. In un istante l'armata non fu più che una massa confusa, tutti i reparti mescolati. Era impossibile ricostruire le unità. Il nemico si accorse di questa spaventosa confusione e lanciò delle colonne di cavalleria. Il disordine aumentò ancora. La confusione dovuta al buio della notte impedì di riorganizzare le truppe e di chiarire l'errore in cui erano cadute. Così, una battaglia conclusa, una giornata arrivata al termine, gli errori corretti, i più grandi successi assicurati per il giorno successivo, tutto fu perduto per un momento di terrore e panico. Ritorna all'apparizione del Dio a cui fa riferimento Victor Hugo, che certo ha letto questo bollettino prima di scrivere il suo capitolo su Waterloo. Napoleone ha convocato il fato sul campo di battaglia e si è fatto sconfiggere da lui, non da Wellington o da Blücher. La fuga di Napoleone aveva rappresentato un fulmine a ciel sereno per il congresso di Vienna, che si trovava riunito in quei mesi. Era il congresso nel quale le potenze vincitrici si erano raccolte a partire dal 1 novembre del 1814 per ridisegnare appunto i confini dell'Europa post-napoleonica. E il congresso si concluse anch'esso poco più di 200 anni fa, pochi giorni prima della sconfitta di Waterloo, e cioè il 9 giugno 1815. E quella storia viene ricostruita da uno storico diplomatico britannico, Harold George Nicholson, nel libro Il Congresso di Vienna, pubblicato da Castelvecchi, 286 pagine, 22 euro, e tradotto da Enzo Enrique Sagnoletti. Dunque, il ritorno di Napoleone sulla scena, come ho ricordato prima, non aveva interrotto i lavori del congresso. Napoleone, anzi, tornato in Francia, aveva dichiarato sciolto il congresso, ma le potenze non avevano dato retta a questa ingiunzione, avevano continuato a lavorare, emanando anzi il 13 di marzo una dichiarazione comune di Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia, Spagna, Portogallo e Svezia contro Napoleone, che veniva definito perturbatore della pace pubblica, che si esponeva dunque alla pubblica punizione. Ma qui non troviamo soltanto l'irrompere di Napoleone. Il congresso di Vienna fu un fenomeno singolare, fatto, scrive l'autore, dal segreto alternarsi di azioni e di reazioni, di energie e di esaurimento, di entusiasmo e di apatia, di giovinezza e di mezza età. Un mix che appunto avrebbe ridisegnato l'Europa. Un altro anniversario, questa volta si tratta di un compleanno rotondo. Ricordiamo questa settimana, il 16 marzo, quando uno dei maggiori intellettuali francesi, un grande giornalista e scrittore, accademico di Francia, Jean d'Ormesson, compie 90 anni, e in questa occasione esce in Italia il suo ultimo libro, che è pubblicato da Clichy, che d'Ormesson ha pubblicato già le opere più recenti, La conversazione, Che cosa strana il mondo e Un giorno me ne andrò senza aver detto tutto. Quest'ultimo libro si intitola Il mio canto di speranza, è tradotto da a Tommaso Gurrieri, 130 pagine, 13 euro. Questo è un libro dal tema affascinante, reso ancora più attuale dall'esperimento in corso al CERN di Ginevra, dove alcuni giorni fa è entrato in funzione il più potente acceleratore di particelle, dando vita a una nuova fase degli studi della fisica, in particolare degli inizi dell'universo. Di questo infatti parla il libro d'Ormesson, che è affascinato da tempo dell'idea che aveva coltivato già Flaubert di scrivere un romanzo sul nulla, e che era stato rafforzato in questo obiettivo dalle recenti curiosità provocate appunto dai progressi nel campo della fisica matematica e della cosmologia, tra i quali la scoperta del bosone di Higgs o particella di Dio avvenuta proprio al CERN di Ginevra. E l'universo ha una storia, dunque, questa scoperta sconvolgente annulla, scrive, spiega d'Ormesson, tutte le teorie cui eravamo abituati fin da Aristotele, che il mondo fosse eternamente immobile, e invece questa scoperta in qualche modo ci avvicina piuttosto alla concezione biblica, in quanto la scienza, ricorda d'Ormesson, ha dimostrato che il mondo ha avuto un inizio e avrà una fine, ha una storia, conclude. E sentiamo allora dalle pagine di d'Ormesson l'inizio del mondo, che coincide con l'inizio del suo libro. 14 milioni di anni fa, più o meno, avvenne un'esplosione. È il nostro beneamato Big Bang, nel quale ha inizio tutto ciò che siamo. Ne scaturì qualcosa di indicibile e di minuscolo, a una temperatura e di una densità che sfidano l'immaginazione. A partire da quella punta di spillo, miliardi di volte più piccola di un granello di sabbia o di polvere, lo spazio scaturisce dal nulla. Non ne esce immutabile né completamente definito. Entra da una porticina e con cautela, in una fase di espansione che prosegue ancora oggi. Inseparabile dallo spazio, il tempo si mette a scorrere. Ne nascono le stelle, le galassie, il sole e la luna, la terra, la guerra del fuoco, le piramidi d'Egitto, la caduta di Troia, l'acropoli di Atene, la grande muraglia cinese, le confessioni di Sant'Agostino, il sogno di Sant'Orsola, di Carpaccio e il sogno di Costantino, di Piero della Francesca, la cantata del caffè di Bach e la vita parigina di Offenbach. Io scrivo queste parole e voi le leggete. Il mondo si è messo in marcia. Che cosa è successo dunque? E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.